Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella. Luce che cade. Luce. Pronunciamo questa parola e già ci sentiamo meglio, perché la luce ci fa stare meglio. E non è un'impressione. Gli studi nel campo della psiconeuroimmunologia dimostrano che la luce attiva alcuni meccanismi biologici che influiscono, chiaramente, è il caso di dire, sul nostro umore. Stiamo andando incontro a una stagione luminosa. Accarezziamo questo pensiero ricaricante. Intanto voglio salutare il professor Roberto Manfredini, direttore della clinica medica all'azienda ospedaliera Università di Ferrara. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti i nostri cari ascoltatori. Lei ci porta un po' di luce. Ma vediamo, mi piace molto. Perché la luce è una sorta di interruttore che accende il buon umore e regola tante funzioni del nostro organismo che, come tutti sappiamo, è organizzato per vivere di giorno e dormire di notte. Lavoro permettendo, aggiungo. È verissimo. In effetti, fra virgolette, l'animale uomo, esattamente come dice lei, ancestralmente è fatto per vivere di giorno e lavorare e riposare di notte. Questo perché? Perché luce e buio sono i sincronizzatori che accendono quell'interruttorino che giustamente lei ha appena citato, che si trova a livello di un piccolo nucleo, si chiama sovrachiasmatico dell'ipotalamo, poi un piccolo pugno di neuroni che sono collegati a questa luce, quindi non a un fascio visivo, cioè non è la stessa cosa del vedere, è il percepire luce buio, che è un po' diverso perché fa scattare una sorta di interruttore che attiva per esempio la melatonina e tutta un'altra serie di mediatori. Professor Manfredini, a proposito di melatonina, molti l'assumono per risolvere problemi di sonno che sappiamo possono essere vari e diversi. Di insonnia abbiamo parlato tante volte nel corso delle trasmissioni, proprio recentemente col professor Ferini Strambi, ma sulla melatonina vogliamo sapere qualcosa. È opportuno prenderla? Chi può prenderla? Per quanto tempo? Cosa dicono le ricerche? Dunque, intanto mi fa piacere che ne abbiate parlato con il professor Ferini Strambi, perché oltre che un amico è uno dei più importanti esperti a livello internazionale. Il discorso è che la melatonina è un segnalatore, è un ormone endogeno. Quindi noi abbiamo questo ormone endogeno e l'interruttorino, la luce lo inibisce, il buio la fa scattare, la fa aumentare e dice sostanzialmente alla persona: guarda, è buio, dormi, guarda la luce, svegliati. Esatto, questo è il suo compito. In effetti, per una serie di disturbi in cui effettivamente forse non è sufficiente la dose endogena, allora scatta la possibilità di poterla acquisire da fuori, cioè di prenderlo dall'esterno, e solo si tratta di concentrazioni alcune centinaia di volte superiori a quella fisiologica. Quando può servire? In alcuni disturbi del sonno, ecco, ripeto, naturalmente sotto prescrizione del collega del centro del sonno, perché i disturbi del sonno non sono tutti uguali. Certo. Ci sono delle persone che per esempio alla sera non riescono ad addormentarsi, stanno svegli fino alle 2, alle 3 di notte, poi quando si addormentano arrivano mattina. Ci sono altri che si addormentano subito e poi magari alle 2 di notte, zac, si svegliano e non c'è più verso di dormire. Allora, questa è una distinzione molto grossolana ma abbastanza importante, perché la melatonina, che ripetiamo non è un farmaco, non è registrata come farmaco, la si può comprare anche nei supermercati, è considerato un integratore per il Ministero. Quindi il fatto che non siano tutte uguali, intanto come dosaggi, e poi perché alcune sono bifasiche, ovvero sì, hanno una quota di rilascio fast, cosiddetto, cioè molto veloce per chi non riesce ad addormentarsi, che ha bisogno di una quota subito veloce di melatonina, e altre invece hanno una forma più retard, un rilascio più lento che serve per andare avanti più ore, e quindi sono un pochino diverse sul mercato la percentuale del fast, la percentuale del slow, quindi veloce, lenta, eccetera. A seconda del proprio disturbo bisogna avere un'indicazione giusta, appropriata su cosa utilizzare. E questa può darcela il medico, anche il nostro medico curante. Comunque, come lei sottolineava, professore, è un integratore, non è un farmaco, come tale avrà dei periodi per l'assunzione, non è necessario consumarla a vita, insomma. Certo, diciamo che non ci sono studi di safety, cioè di sicurezza, per moltissimi anni, proprio perché sarebbe una sostanza da assumere quando ce n'è bisogno, per il momento del bisogno. Certo che per i disturbi del sonno il tempo è un pochino più lungo rispetto per esempio all'utilizzo in acuto che si fa per il jet lag, sono cose diverse. Professor Manfredini, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, speriamo che questa primavera arrivi presto. Certo, basta pioggia, forza luce, forza sole. Forza luce, professor Manfredini, grazie. Grazie a tutti, buona giornata. Occhi neri, assoluti e sinceri, occhi amati e sognati, occhi desiderati. La bellezza è cattiva, la mia strada non ci arriva e il mio amore non sa perché. Il nostro umore risponde bene alla luce, come ci spiegava il professor Manfredini, ma i nostri occhi, e qua vi voglio. Allora facciamo un piccolo test, ci accompagna oggi il professor Guido Ripandelli, specialista in oftalmologia presso la Fondazione per lo Studio e la Ricerca in Oftalmologia, Giambattista Bietti di Roma. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno, grazie a lei e ben ritornati insieme con queste conversazioni e buongiorno ai radioascoltatori. Allora, intanto professore, che lei pensa al test per aiutarci a capire come i nostri occhi reagiscono alla luce, perché la luce è uno straordinario strumento per autovalutare anche la salute dei nostri occhi. Io ricordo ai nostri ascoltatori che possono come sempre chiamarci 800 24 00 24, potete seguirci su Facebook, naturalmente su Twitter, l'hashtag di oggi è In cerca di luce. E come sempre potete mandarmi un messaggio al 349 238 6666. Professor Ripandelli, intanto che lei immagino ha preso tempo, noi siamo pronti per il nostro test di autovalutazione. Che cosa dobbiamo fare? Diciamo, la luce può dare dei fenomeni molto disparati, molto vari e diversi come significato tra di loro. La cosa più semplice che mi viene in mente e che molti pazienti riferiscono tipicamente, la prima cosa è il bruciore alla luce o il fastidio alla luce, tipo inteso proprio come fotofobia, che è abbastanza, diciamo, a volte diffuso quando sono le stagioni più luminose con forte riverbero di luce. Sì. O anche fastidio quando magari dopo un po' di affaticamento si ha fastidio la luce con i terminali, eccetera. Sono condizioni queste diverse tra di loro che possono essere, diciamo, sicuramente non indici di patologie importanti, ma magari cose banali. Quindi lei ci ha portato fuori e dentro casa, fuori casa. Fuori e dentro casa. Ecco, se e la anche luce addirittura di notte, diciamo, perché a volte si ha fastidio alla guida notturna quando si ha abbagliamento con i fari, tipicamente delle macchine, o non si vedono bene le insegne luminose. E quello può essere un altro test di valutazione da fare insieme all'oculista per capire se il paziente avesse un difetto di vista non corretto bene, quindi sono bisogno soltanto degli occhiali, o magari un inizio di una lieve, un principio di cataratta, quindi un'opacità del cristallino che crea in queste condizioni notturne di luminosità un fastidio proprio di abbagliamento, cosa che magari non si rileva durante gli altri orari della giornata. Quindi noi dobbiamo pensare anche se, ad esempio, vediamo meglio la luce naturale o quella artificiale. Esattamente, anche questo va valutato, senza, insomma, grossi allarmismi, per carità, perché ovviamente la luce di per sé non fa male se diciamo, adeguatamente controllata con anche delle protezioni necessarie in alcune condizioni di forte luminosità, altrimenti insomma ci possono essere dei fastidi agli occhi, delle lesioni, ma sempre temporanee. Quindi invitiamo i nostri ascoltatori a misurare un po' la loro salute visiva, il loro benessere visivo. Gli stimoli che lei ha suggerito sono molto chiari. Luce esterna e quindi luce naturale se avvertiamo fastidio alla lacrimazione. Entriamo dentro casa, il video terminale a volte ci dà stanchezza, dimentichiamo di ammiccare, per cui notiamo di avere l'occhio un pochino più stanco. Lei suggeriva anche di segnalarci eventuali problemi nella guida notturna, professor Ripandelli. Ecco, e possiamo aggiungere anche la difficoltà che mi è stata segnalata subito da un ascoltatore al 349-238-6666, difficoltà a vedere ciò che leggo, devo aumentare la luce perché sennò le lettere sono un po' sfocate, questo mi scrive Maria. Professor Ripandelli. Assolutamente, questa è un'altra parte, diciamo, della difficoltà di luminosità, che può essere dovuto a una presbiopia, quindi a un difetto di vista da vicino, quindi a regolare un po', diciamo, la correzione che dopo una certa età, diciamo con l'età adulta, può essere necessaria per leggere. E in queste condizioni può anche subentrare un difetto, come dicevo prima, per la guida notturna, anche, diciamo, alla lettura, nonostante la correzione degli occhiali, può essere un fatto, diciamo, di lacrimazione in superficie oculare. Certo. Oppure anche di una cataratta, diciamo, della cui entità va valutata con, diciamo, si va accertati con la visita oculistica, ma che magari è risolvibile cambiando gli occhiali o rinforzandoli. Quindi sono difetti di vista che queste sintomatologie rilevano con alcune situazioni, appunto, che possono ripresentarsi con la stessa tipologia, diciamo, di riferimento, ma che poi magari hanno indicazioni diverse come soluzione. Quindi pensiamo a noi, ai nostri occhi, alla luce nell'arco della giornata, anche durante le nostre attività. 800 24 00 24, parliamone, perché il professor Ripandelli è qui, è il caso di dire, per illuminarci. A proposito di luce artificiale, le vecchie lampadine hanno ceduto il passo alla tecnologia LED, questo lo sappiamo tutti, ma vogliamo sapere di più, e in linea con noi abbiamo il professor Pietro Palladino, docente di illuminotecnica al Politecnico di Milano e progettista di illuminazione. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Buongiorno. Professore, la vecchia lampadina la salutiamo. Oggi la luce è a LED, ci permette di risparmiare, ma cosa ci guadagniamo in termini di benessere visivo? Dunque, sostanzialmente la luce a LED sì, ci consente di risparmiare e di evitare di sostituire le lampade ogni 1000-2000 ore, quindi c'è un beneficio indotto dal fatto che una volta che noi utilizziamo queste lampade le lasciamo lì per anni e anni. Da un punto di vista strettamente visivo, le lampade a LED di concezione moderna si avvicinano moltissimo alle prestazioni cromatiche delle lampade incandescenti, diciamo lampade tradizionali. Non potranno mai sostituirle perfettamente perché c'è un piccolo problemino, come dire, di fisica, perché questo non sarà possibile, ma da un punto di vista visivo riescono a darci la possibilità di avere una visione confortevole. Ormai la tecnologia è molto consolidata a riguardo. Professore, permettono di risparmiare, durano molto più a lungo delle lampadine tradizionali, posso chiamarle così, sì, certo. Ma costano parecchio, diciamo la verità. Sì. Allora, cerchiamo di sceglierle bene, perché in effetti ci portiamo a casa qualcosa che ci accompagnerà per anni. Sì, ecco. Sostanzialmente una lampada, diciamo, una volgarmente detta lampadina da 60 watt tradizionale si può acquistare intorno ai 2 euro, diciamo, sì, al supermercato. Ecco, per avere una lampada paritetica come flusso luminoso, cioè che fa la stessa luce, c'è da spenderne oggi come oggi, per avere una buona qualità, tra i 20 e i 25 euro. Sì, che è una bella, ecco, botta. Sì, però bisogna considerare che una lampada del genere non scende mai sotto le 30.000 ore. Quindi, a conti fatti, possiamo sicuramente dire che da un punto di vista economico la partita è decisamente a favore dei LED. Il problema qual è eventualmente? È quello, ci sono due aspetti. Sì. Il primo è che, trattandosi di una tecnologia incipiente, i costi sono ancora abbastanza elevati, quindi è presumibile che nel giro di qualche anno scendano, diciamo, questi costi si riducano. Quindi ci dà già una buona notizia. Esatto, e poi bisogna sceglierla anche in modo oculato, perché i LED sono disponibili in moltissime tonalità, cioè si parla di luce calda, luce fredda, ma al di là di questo c'è anche un problema connesso con la qualità cromatica di emissione. Quindi un consiglio è quello di spendere il giusto e non cercare le lampade che costano meno, perché e soprattutto che non sono brandizzate nel modo giusto, diciamo quelle un po' più, perché effettivamente qual è il problema? La qualità cromatica non è potrebbe non essere buona, ma soprattutto questo aspetto potrebbe manifestare la lampada nel corso della sua vita. E lei compra una lampada scadente, inizialmente nelle prime migliaia di ore ha le prestazioni uguali a una lampada che costa il doppio. Esatto, però nel giro di 4-5 mila ore, diciamo un anno, due anni, a un certo punto si sposta come punto cromatico, come diciamo, si sposta anche come contenuto di radiazioni interne, e questo fa sì che la luce sia poco gradevole. Professore, quindi occhio all'acquisto, è il caso di dirlo oggi che parliamo di occhi e luce, di benessere visivo e di luce. Ci sono delle indicazioni che possiamo leggere sulla confezione che ci possono aiutare a scegliere bene? Certo, le aziende più qualificate scrivono sempre sulla scatola la temperatura di colore, che in termini tecnici viene esternato attraverso un numero. Sì. Per esempio, quando noi leggiamo 2700K, 3000K, questa è una lampada a luce calda. Sì. Invece leggiamo 4000-4500, questa è una lampada di tonalità più fredda. Ma normalmente a questi numeri vengono sostituiti direttamente le diciture tonalità calda o tonalità fredda. Chiediamo al professor Ripandelli, come oculista, i nostri occhi, luce calda e luce fredda, presentano delle differenze o basta che sia luce? Ma dipende dalla sensibilità specifica che può avere un paziente rispetto alla luce, quindi torniamo un po' al discorso dell'abbagliamento, della fotofobia, eccetera, e anche ovviamente da quello che noi dobbiamo fare con l'occhio, quindi con la luce. Qui mi viene in mente, non so, il video terminalista che magari ha bisogno di un certo tipo di illuminazione per vedere bene il terminale, eccetera. Non direi che ci sono degli obblighi o delle differenze. L'oculista approva, insomma. Sì, sì. L'oculista, abbiamo il placet dell'oculista. La luce, tra l'altro, sarà uno dei temi importanti del Salone del Mobile che si apre a Milano, domani, presso il quartiere fieristico di Rho, da domani a domenica 14 aprile, in scena Il mondo che abiteremo, ossia la 52esima edizione del Salone Internazionale del Mobile, con il Salone Internazionale del Complemento d'Arredo, le biennali Euroluce, vi dicevo, e Salone Ufficio accanto al Salone Satellito, e come ogni anno in vari punti ci saranno i famosi fuorisalone, no? In vari punti della città, moltissime iniziative legate al mondo del progetto, dell'arte, della cultura, in fiere, in città, insomma Milano fa festa, siete tutti invitati. Professor Palladino, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Comprerò con attenzione, adesso finalmente ho capito. E buona giornata. Buona giornata a voi. Buona giornata. E buona luce. Giulia, buongiorno, da Milano, 800 24 00 24, benvenuta, come sta? Sì, tutto bene. Bene. Io chiamavo in realtà perché appunto il professore parlava di una cosa che purtroppo mi capita ormai da un paio d'anni e mi crea fortissimi problemi. Cosa succede? Nel senso che io non ho problemi di vista se non porto degli occhiali per non stancare la vista troppo, perché lavoro molto a computer, ho fatto appunto progettazione di interni, per cui sono programmi che stancano l'occhio, però non ho altri problemi se non questo, quindi degli occhiali per vista da vicino, computer. Non ho problemi a vedere da lontano, quindi non devo guidare con gli occhiali. Il problema mio è che da un paio d'anni non riesco più a guidare di sera, proprio perché i fari delle automobili dell'altra carreggiata, soprattutto in autostrada, mi abbagliano, ma a tal punto che dopo un pochino che guido quasi mi viene da distogliere la vista, proprio per non chiudere gli occhi. Professor Ripandelli, lei proprio ci ha portato di notte alla guida notturna e ha segnalato questo fastidio che avvertiamo, anch'io inizio ad avvertirlo, di questi fari che quasi ti abbagliano. Sì. Che succede? Che si può fare? Beh, il faro comunque, della macchina posizionato alto, abbaglia chiunque in condizioni purtroppo anche di normale divisione ottima, quindi parliamo anche da un presupposto che effettivamente può esserci un abbagliamento indipendente da qualunque tipo di situazione, però parlando un po' delle ipotesi che potrebbero essere collegate a qualche difetto di vista, l'abbagliamento notturno può essere dovuto o a una stanchezza, come diceva la signorina, lavorando molto al terminale durante una giornata o dopo una giornata in cui si ha uno sforzo accomodativo prolungato, se non fatte le condizioni, diciamo, necessarie, diciamo, pause lavorative ogni tanto di togliere lo sguardo, a fine giornata può esserci uno spasmo di accomodazione, quindi diciamo un difetto di vista per cui l'occhio ha una, diciamo, sorta di miopia, miopizzazione transitoria per cui vede sfocato, e questo da lontano, soprattutto con i fari delle macchine, si può rilevare in maniera più accentuata. Sono casi, condizioni particolari, quindi riferendo magari a una situazione. Quindi, ma Giulia, le persone che avvertono questo fastidio e lavorano molto spesso e per tante ore al terminale, che cosa possiamo suggerire? Prima di mettersi loro, in macchina, un po' di ginnastica visiva? Beh, innanzitutto per prevenire il disturbo, diciamo, di fare delle pause di lavoro quando si lavora molto al computer, ogni un quarto d'ora, ogni due ore è quello tipicamente indicato, diciamo, nelle linee guida. E quindi, diciamo, prevenire un affaticamento che poi comunque è fine a se stesso, perché nel giro di poche ore, di un giorno, la mattina dopo si sta bene, quindi diciamo di non allarmarsi in questo. Altrimenti un'altra situazione che può determinare questi abbagliamenti notturni può essere un difetto di vista non rilevato, un lieve astigmatismo, una lieve miopia, come dicevo, magari non indotta dall'affaticamento, ma una miopia proprio per cui è necessaria una correzione, di cui il paziente o il guidatore non si accorge fin tanto che non è in determinate condizioni di sollecitazioni della vista. Allora, quindi infatti, questo lo sottolineiamo e ne parleremo nel corso della trasmissione, la stanchezza degli occhi può anche essere dovuta a difetti visivi come miopia, presbiopia, astigmatismo, che, se non corretti in modo opportuno, contribuiscono proprio ad affaticare gli occhi e non il contrario, come a volte si pensa. Essere e benessere. Io sono un automobilista ed essendo un automobilista sono sempre costantemente incazzato come una bestia. Ce l'ho a morte con gli automobilisti, come quello che incroci di notte in autostrada e tiene i fari tirati su. Ma non sono fari abbaglianti normali, no, sono fari da nave. Vabbè, adesso si avvicina, li tirerà giù. Niente. E allora è gioco forza, gli spari addosso i tuoi. È legittima difesa, è un tuo diritto, non sancito dal codice, ma addirittura dalla Bibbia. È scritto nella Bibbia occhio per occhio. Ossia, se tu accechi il mio occhio, io acceco il tuo occhio. Eccolo qui, un grande Joele Dix. In linea con noi abbiamo il professor Guido Ripandelli, parliamo di luce, parliamo di occhi, di benessere visivo. Il professor Ripandelli ci ha suggerito una sorta di autotest, misurare insomma le reazioni che i nostri occhi hanno nei confronti della luce, cambiando luce, luce naturale, luce artificiale, computer, luce di notte. E tra l'altro Paolo mi scrive: un consiglio da autista quando ci abbagliano i fari delle macchine, guardare il ciglio destro della strada e non i fari. Questo ci scrive Paolo. Ma professor Ripandelli, diamo anche una risposta a Rita, che ci scrive che il marito porta gli occhiali bifocali e alla sera con i fari delle auto dice che vede delle stelline intorno alle luci. Cosa sarà? Si chiede Rita. Professor Ripandelli. Non necessariamente la stella cosa l'ha lasciato un po' in imbarazzo, ho visto, ma sì, le stelline l'hanno presa a contropiede. Perché stavo pensando al rapporto stelline con gli occhiali bifocali, per cui non dovrebbe esserci un nesso così diretto con l'occhiale bifocale, a meno che, diciamo, l'abbagliamento non cada nel passaggio tra la lente e quella da vicino e da lontano, ma generalmente quando si guarda dritti questo non accade, quindi non dovrebbe essere un difetto legato al bifocale, ma quanto probabilmente, ritornando al discorso, o un astigmatismo corretto male, o che va cambiato, non corretto completamente, o che è cambiato qualcosa. Un po' di cataratta, un po' di opacità cristallino. Insomma, un mix di cose. Un mix. Senta, un'età professore, potrebbe comportare questo. Lei ci ha detto che la stanchezza degli occhi può essere dovuta a difetti visivi, miopia, presbiopia, astigmatismo, che non sono opportunamente controllati, e magari noi non ci rendiamo conto del nostro problema. Quali sono i segnali che ci fanno capire che dobbiamo farci dare una controllatina, oppure magari correggere ulteriormente il difetto, dare un'aggiustatina? Beh, diciamo, al di là del discorso notturno, abbagliamento, perché sì, come diceva giustamente, no, certo, anche il nostro radioascoltatore, che per esperienza guidando di notte gli abbagliamenti ne avrà subiti in vita sua diversi, per cui c'è anche, diciamo, la persona si comporta, non si comporta proprio correttamente, quindi abbaglia con dei fari, diciamo, frontalmente l'altro guidatore, quindi c'è un abbagliamento anche in condizioni di perfetta visione, però al di là, diciamo, di visione notturna ci può essere un difetto di vista di sfocamento delle immagini a diverse distanze, quindi comunque con o senza intensità di luce, che magari la luce accentua come fenomeno di abbagliamento ma anche diurno, sì, per cui potrebbero esserci queste condizioni, un difetto di vista banale, magari va fatta una visita oculistica per controllare anche eventualmente la superficie oculare, se c'è un difetto di lacrimazione, facilmente si ha un fastidio alla luce, accompagnato poi dalla lacrimazione riflessa, quindi da un riflesso di difesa. Tutto, insomma, una serie di situazioni che magari partono da una cosa banale che va corretta, semplicemente con degli occhiali oppure con una terapia adeguata, tipo se si ha secchezza dell'occhio, con delle gocce adeguatamente prescritte dall'oculista. E per cui, ecco, diciamo, si risolve tutto con un po' di attenzione, con una visita dallo specialista. Andiamo a Treviso e poi alla provincia di Bari e poi parleremo della vitamina della luce. Esiste una vitamina che possiamo proprio chiamare così. Alessandro da Treviso, buongiorno a lei, benvenuto. Sì, buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io, in pratica, il vostro ospite Ripandelli, il dottor Ripandelli, ha descritto esattamente la mia situazione. Io a parte che porto le lenti a contatto e pensavo mi avessero risolto il problema della vista, e invece ultimamente dalla parte dell'occhio sinistro io posso aggiungere tutte le lenti di questo mondo, 2, 3, 4, 5 diottrie, e in pratica vedo attraverso un vetro appannato. Ho fatto una visita ad un oculista, mi ha detto che purtroppo, pur avendo 52 anni, ho una cataratta centrale. Sì. Quindi la mia domanda è, siccome mi si è abbassata parecchio la qualità della vita, perché certo, in effetti... Perché come avere davanti una lente sporca, certo, un computer, tutte le avete descritte. Cosa si può fare? Punto di domanda. Professor Ripandelli, cataratta è un problema che per anni si pensava che interessasse solo le persone anziane, invece sempre più giovani si confrontano con questa opacizzazione del cristallino. Un tempo si diceva che la cataratta doveva essere operata quando era matura, adesso invece avete cambiato idea, no? Gli approcci sono assolutamente cambiati. Qual è il consiglio per Alessandro da Treviso o comunque per una persona giovane che ha un problema di cataratta e quindi di opacizzazione del cristallino? Ecco, per il signor Alessandro e per diciamo, i pazienti o persone come lui che hanno questa opacità particolare, perché generalmente è ancora vero che la cataratta è un processo fisiologico, comunque, questo bisogna dirlo, di ossidazione, quindi di opacamento del cristallino, come non so, invecchia la pelle. Certo. E quindi comunque con l'età gradualmente noi perdiamo questa trasparenza di questa parte dell'occhio. Ovviamente sono delle condizioni ambientali o genetiche o di popolazioni che possono accelerare questo decorso. Quindi persone che stanno molto all'aria aperta durante la vita, con grossa esposizione alla luce, senza una protezione adeguata, ovviamente la luce ha un potere ossidante, senza imputare niente, diciamo, di grave al sole, però ovviamente vanno prese delle adeguate misure e può esserci una cataratta precoce. Nel caso del signor Alessandro, questa cataratta di cui lui riferisce, centrale, è molto particolare perché in realtà può essere un'opacità anche puntiforme, localizzata in un punto del cristallino che per il resto è perfettamente trasparente, quindi non possiamo parlare, diciamo, di una cataratta matura, tra virgolette, da operare, ma che magari per quel punto, diciamo, in cui c'è questa opacità, magari puntiforme, a lenticchia, piccolina, crea questo fastidioso riverbero di luce, proprio perché è posizionata nel punto centrale dove l'occhio vede, diciamo, c'ha il punto... Cioè il punto luce, diciamo così. Punto luce. Allora in queste condizioni va un po' considerato quanto c'è di acuità visiva, quindi di quantità di vista c'è, e quanto ovviamente il paziente soffre di disturbo di qualità della vista. È sempre prudente, perché la cataratta è un intervento comunque chirurgico che va comunque valutato ponderatamente con l'oculista, la tempistica eccetera, non va mai banalizzato, perché per quanto sia comunque molto rapido è sempre un intervento, quindi non fare, diciamo, cose facili mai, ma sempre comunque con una certa prudenza. Se ha avuto il fastidio è proprio così insopportabile o non in parte risolvibile con occhiali da sole o qualcosa, sostituendo il cristallino la vista si snebbia, posso dire così? Esatto, allora a quel punto bisogna fare l'intervento chirurgico. Certo, che è che risolve la situazione, ovviamente, quindi comunque diciamo il rimedio ci sta. Va valutato da caso a caso quando certo. È il momento veramente di poterlo fare. Vi ho anticipato che avremmo parlato di una vitamina che possiamo chiamare la vitamina della luce. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la professoressa Silvana Creglia, docente di biochimica della nutrizione al Dipartimento di Scienza per la Qualità della Vita all'Università di Bologna, un dipartimento che a noi piace in modo particolare. Buongiorno professoressa, bentornata. Buongiorno a tutti voi. La vitamina amica della luce e della salute dei nostri occhi, infatti protegge la nostra vista, in particolare permette la visione notturna. Professoressa, parliamo della vitamina A. Ah. La prima lettera dell'alfabeto. E mi sia concessa una battuta, anche l'occhio vuole la sua parte, anche quando si parla di nutrizione. Infatti la vitamina A è la vitamina specifica per proteggere i nostri meccanismi visivi, essendo una componente essenziale di una sostanza proteica che si chiama rodopsina, che è un costituente endogeno della nostra retina. La vitamina A dove la troviamo? La troviamo come tale, come vitamina, in quelli che gli inglesi chiamano gli alimenti dairy, cioè gli alimenti freschi, quali il latte e le uova, ma la troviamo soprattutto molto abbondantemente come precursore nel mondo vegetale. Tutti avrete sentito parlare dei famosi carotenoidi, di cui il beta-carotene è il componente essenziale. Dove troviamo questi carotenoidi e questo beta-carotene? Seguiamo la famosa scala dei 5 colori. Le linee guida ci dicono che noi dobbiamo assumere frutta e verdure al giorno, possibilmente di 5 colori diversi. I colori sono il bianco, il verde, il rosso, il blu e il giallo-arancio. Ecco, e allora noi ci fermiamo qua. Il giallo-arancio è il nostro carotene. Al giallo-arancio, perché andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Stiamo fermi sui colori, ritorniamo subito dopo con la professoressa Creglia, perché come anticipato anche l'occhio vuole la sua parte, anche a tavola. Essere e benessere. E siamo tornati insieme alla professoressa Creglia, parliamo di vitamina A e del precursore della vitamina A. Professoressa Creglia, lei ha detto attenzione ai colori e ci siamo fermati sull'arancione. Sul giallo-arancio, che è il colore del semaforo, attenzione a scegliere alimenti di colore giallo-arancio, solo che in questo caso il giallo è prodromico di un'assunzione salutistica e non anticipatore di un rosso. Dobbiamo scegliere alimenti di colore giallo-arancio, quali le albicocche, le zucca, la zucca, le carote, il melone, ora che ci avviciniamo, speriamo, alla stagione estiva, perché sono ricchi di questi precursori. Ma non solo il beta-carotene fa bene alla salute dei nostri occhi, ma altri due carotenoidi contenuti sempre in alimenti di colore giallo-arancio o verde molto intenso. E volevo ricordare la luteina e la zeaxantina. La parola luteina deriva da una parola latina che è il termine luteos, che vuol dire giallo, quindi già richiama la colorazione gialla ed è nota per le sue proprietà antiossidanti e protettive della vista. Appartiene alla classe chimica delle xantofille, che sono dei pigmenti naturali contenuti in alimenti sia di origine animale, per esempio il tuorlo d'uovo, sia di origine vegetale. In assoluto il vegetale che è più ricco di luteina sono gli spinaci. Consideriamo che in 100 grammi di spinaci sono presenti circa 12 mg di luteina e che il fabbisogno giornaliero per l'uomo di luteina è stimato in circa 4-5 mg, per cui bastano 50 grammi di spinaci, una piccola tazza. E noi siamo a posto, come esatto, si dice. Abbiamo per svoltato. Per garantirci la quantità di luteina necessaria e sufficiente a proteggere la retina, che va, perché la luteina assorbe la luce azzurra proteggendo proprio l'occhio dalle radiazioni ultraviolette nocive. Quindi una manciata di spinaci al giorno. Esatto. Leva gli occhiali di torno. Ma quasi. Ma comunque ci garantiamo una protezione nei confronti della macula retinica e sembra che la luteina sia in grado anche di contrastare la cataratta, perché questo pigmento si accumula nel cristallino. Fantastico. Professoressa Creglia, venga a trovarci più spesso. Ci sentiamo presto. A vostra disposizione. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie a lei. Buongiorno. E la luce di giorno, la luce artificiale, la luce naturale, noi la stiamo cercando, molti messaggi, la luce non arriva questa primavera, perché è vero, abbiamo aperto così la trasmissione, la luce ci ricarica e ci dà energia, perché è a tutti gli effetti una fonte di energia, come sostiene anche il Feng Shui, una disciplina che utilizza metodi semplici e precisi per portare equilibrio e armonia nelle case, è una sorta di architettura, direi, del benessere. Ne parliamo con Alessandra Mazzocchi, consulente e docente di Feng Shui, che è qui in studio con me, si è sentita tutta la puntata. Buongiorno dottoressa Mazzocchi. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Possiamo considerarlo una sorta di architettura del benessere il Feng Shui? Sicuramente porta benessere e armonia ed è equiparato allo shiatsu per la casa, perché agendo sui punti riflessi dei nostri appartamenti, ma anche dei nostri uffici, negozi, eccetera, possiamo portare un benessere anche al nostro a noi stessi. Certo, quindi mi piace una sorta di shiatsu per la casa. Allora possiamo trarre qualche suggerimento per restituire benessere alla nostra casa? In fondo la primavera è una stagione di ricambio. Sì, in effetti è proprio la luce di cui, che è il tema della puntata, riporta alla parte yang del Tao e quindi alla rinascita, al rinnovamento generale, che è parte della stagione della primavera, che speriamo arrivi il prima possibile. Ora, per agire sulla casa, un rimedio molto semplice è quello di alleggerire la casa, i nostri appartamenti, dagli accumuli invernali. E quindi se abbiamo raccolto... Infatti si dice si fa repulisti, le pulizie di Pasqua. Le pulizie di Pasqua hanno il loro perché proprio nella stagione primaverile, perché è la stagione del rinnovamento. Quindi se abbiamo accumulato per esempio vestiti, cose in eccesso durante l'inverno, la primavera è il momento utile per alleggerire la casa e magari riciclare nostri beni. Fare luce fare anche luce nei nostri armadi, nelle nostre case. Un rimedio ancora più semplice è quello di aprire le finestre. Certo, oggi la luce farla entrare. Sì, far entrare la luce e l'aria, perché a quel punto l'energia fresca entra nella nostra casa e rinnova anche il nostro benessere. Certo. Quindi ci aiuta a stare meglio. Quindi è un rimedio semplicissimo che il Feng Shui utilizza molto frequentemente. Anche perché noi abbiamo un po' perso il contatto con tutto quello che è, no, il mondo della natura. Per il fatto che siamo spesso chiusi in ambienti con finestre che non si possono aprire, luci artificiali, quindi dobbiamo riscoprire il contatto con la natura, riconnetterci con i cicli naturali, i cicli stagionali, per riappropriarci del nostro benessere. Quindi dobbiamo fare uno sforzo in più. Chiaramente oggi siamo abituati a dei ritmi che non sono naturali, però con un piccolo sforzo, ecco, riscoprendo il buon senso, tra l'altro anche di una tradizione antichissima. Che è questa del Feng Shui, che mi è piaciuta proprio la descrizione, uno shiatsu per la casa. Sì, perché in effetti agendo sulle varie stanze possiamo intervenire anche sugli aspetti della nostra vita. Sembra strano, ma allora, se volete saperne di più potete andare sul sito fengshuilive.it. Grazie alla dottoressa Mazzocchi, grazie al professor Ripandelli per essere stato con noi. Prego, grazie a lei Nicoletta. Buona luce a Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Faggin in redazione. Noi ci sentiamo domani, se avete piacere. Buona giornata da Nicoletta. Essere e benessere.